Sometimes I get a good feeling, yeah. Yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. I just wanna tell you right now that Trasmissione autogestita sugli 87 900 di Radio Onda Rossa. Buonasera, buonasera a tutte, siamo qui riunite. Intanto per questa pubblica radio che è Radio Onda Rossa e siete all'ascolto di una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, siamo Caterina e Lucilla. Ciao. Oh, poi qui ci viene a fare compagnia anche Little Rose che è la nostra grande tassinara. Allora, siete all'ascolto di, come dicevo, una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, trasmissione numero... Vediamo un po' se me lo ricordate, numero 132, e vai. Quindi, avevate indovinato? Sicuramente non lo so, sì. Sicuramente sì. E allora che cosa facciamo per il momento? Mandateci un SMS per dire, noi vi diremo se avevate indovinato veramente o no. E quindi sì, intanto per il momento sta litigando con i comandi. Io esatto. Ho questa comunicazione da fare. Lucilla sta al mixer, non so se mi spiego. E Caterina, che è sempre stata la mixerista della situazione, stavolta sta invece dall'altra parte. Allora, detto questo, mi stava riandando la sto sigla. Dall'altra parte in che senso? Scusa, non per... No, sei sempre come lesbica. Che... Ah, ecco. No, spaventi se dici no, così. No. Assolutamente, noi siamo, siamo doc, d'occasione, quindi venite, comprate i regali di Natale, le strenne, noi siamo delle strenne, va bene. Comunque, se avevate indovinato che eravamo la 132, l'SMS a cui potete mandare, poi non si sa che premio vincerete, però intanto voi provate, è 338-4146-682, va bene? Ripetilo che è meglio. Allora, 338-4146-682... Siamo sempre noi e ci potete contattare a contatti@clrbp.it. Poi vi diciamo tutto il resto. Per il momento andiamo con la trasmissione di oggi. E abbiamo trovato delle carinerie, devo dire. Aspettate che ora cerco i fogli perché mi pare facile. Allora, la fonte. Innanzitutto Caterina è stata precisissima perché ha preparato lei e ha detto la fonte. La fonte è HTTP. http://, questo l'ho capito quando fa track track con le due barrette, /it.gay.com/view. Vabbè, ancora, insomma, esclusiva di gay.it, era lungo, eh? Insomma, l'abbiamo trovata su internet per parole povere. Allora, cosa, esatto, grazie Kate. Prego. Cosa succede a Salerno? Una vera perla di lesbofobia. Cioè, che cosa sarebbe successo? Ma sarebbe meglio definirla ignoranza, presuntuosa ignoranza, ma in seguito alla pubblicazione di un articolo sulla rivista Contro Campus riguardante la nascita dell'associazione universitaria omosessuale Federico García Lorca nell'Ateneo di Salerno. Il quotidiano Cronache del Mezzogiorno ha dato spazio ad un editoriale a firma di Antonio Cortese che grida addirittura allo scandalo. Il titolo, scandalo all'università, l'occhiello, l'Ateneo di Salerno in subbuglio per foto e confessioni di alcune studentesse lesbiche. Ma andiamo a leggere. Diffusione crescente di atteggiamenti lesbici da parte di molte studentesse che senza alcun pudore si fanno addirittura ritrarre fotograficamente in pose ambigue. Per noi non sono ambigue, sono chiare, però per loro, per lui, per sto scrittore, sto giornalista, sono ambigue. L'articolista continua la sua analisi chiedendosi argutamente se si tratta di semplice voglia di esibizionismo in rosa o pura provocazione seduttrice. Sta di fatto, continua Cortese, che le giovani ribelli manifestano esplicitamente comportamenti che vanno ai confini di vere e proprie effusioni, niente po' di meno che, aggiungiamo noi. Nella foto due ragazze si baciano sulle labbra, carine. Molto probabilmente queste studentesse sono ancora molto influenzate, dice sempre l'articolista, dagli echi del femminismo sessantottino. Niente meno. Se facciamo due calcoli, 68, cioè insomma, mo sono passati 78, 88, 98, sono più di 30 anni, insomma, 30 anni abbondanti, forse non erano neanche 35, nate quelle studentesse. Però sono influenzate, beh, ognuno si influenza, c'è la SARS, c'è qua, c'è là, c'è la cinese, e c'è la, questa, la sessantottina, che si aggira nei corridoi, questo appunto è gli echi del femminismo sessantottino, che si aggira nei corridoi come un fantasma mai sopito e da antropologiche sette che trasudano, io direi anche sudano, dalle righe dei tanti libri di stregoneria locale. Una stregoneria che affonda le proprie radici proprio nelle zolle umide del contatto, del contado fiscianese. Fisciano è la città nella quale ha sede l'Università di Salerno. Papá Joaquim, Paris, você dá licença do homem. Allora, questo tipo, tal Pasquale 40, che è l'autore di questo articolo, continua con queste parole: si pubblicizza tale comportamento come una scelta normale, naturale e assolutamente non condannabile. Anzi, negli articoli redatti dagli studenti e anche da alcuni dottori in materie umanistiche, il comportamento lesbico viene giustificato grazie anche ad antiche tesi distorte di alcuni autori protagonisti della storia della letteratura come Freud e Baudelaire, o della stessa Lesbo, che diede origine, sentite bene, al femminismo nell'antica Grecia. Quindi Lesbo e non Saffo, certo, Lesbo. Lesbo, che era una nota scrittrice. No, ma il femminismo nell'antica Grecia, cioè, io voglio dire, i greci sono stati un popolo decisamente molto avanzato, ma addirittura femminista mi sembra. No, ma scusa, e quindi quello degli anni 70 non è stato più il secondo femminismo, come in genere si terzo. Dice, ma sarà il terzo o il quarto, chi lo sa. Infatti, una ragazza dell'Ateneo definisce il lesbismo praticato nei corridoi come una sfida politica alla sessualità dominante, una sfida che oggi, dopo 2000 anni, non si capisce più quali altri diritti possa pretendere. Chiaramente c'è stata pronta la risposta del periodico di informazione universitaria Contro Campus, che, esercitando in tal modo il diritto di replica, in verità non ottimizzato al meglio, infatti gli ha messo un piccolo box a fondo pagina rispetto al titolone concesso all'articolo sopracitato, invita a considerare l'omosessualità femminile come un altro modo di amare. Per Anna, 27 anni, socia fondatrice dell'associazione universitaria Garcia Lorca, l'articolo testimonia il di misoginia dei maschi rispetto all'affermazione di una visione femminista e lesbica della realtà. L'attacco è un rabbioso rigurgito contro il desiderio di autodeterminazione delle donne salernitane. Le affermazioni di Cortese sono senza senso e hanno un solo scopo, forse, quello di depotenziare il movimento gay, lesbico, bisessuale e transessuale che si sta costruendo in città. Influida, ta danzo cha cha cha, ta danzo tinguisa, paña gurpi me paga. Ta influida, ta danzo cha cha cha, ta danzo tinguisa, paña gurpi me paga. Oh mamá, escuse un vergonha, oh mosca boda, vos cintura. Oh mamá, escuse un vergonha, oh mosca boda. E allora continua sempre su questa storia Cioè Caterina ogni tanto mi fa dei versi, non capisco bene, sul sottofondo. Allora, Luciana, di 29 anni, anche lei socia fondatrice. È probabile che il signor Cortese abbia una cultura orientata da film e libri con finte donne lesbiche, simbolo della visione fallocentrica dei rapporti sentimentali. In fondo non è mica colpa sua. Le sue parole si commentano da sole. Fa sentire la sua voce Annalisa Bozzetto dell'Arcilesbica di Salerno. Questa esperienza ci insegna che il coming out delle lesbiche, e non usate il termine gay per le donne perché sarebbe come dire uomini lesbica, non è cosa né facile né priva di rischi. Siamo soggette a un doppio giudizio morale, in quanto donne e in quanto donne che amano le donne. L'articolo dimostra la superficialità e il pregiudizio che una cultura sessista ha radicato. Tutto ciò mette in evidenza quanto di pruriginoso e non velatamente morboso ci sia nell'immaginare la vita di una donna lesbica. Allora, quella che avete appena ascoltato era Oci Curiel con il brano Ellas Nosotras, e io avevo scritto delle considerazioni rispetto alla notizia che abbiamo appena dato, perché questo episodio mi ha fatto tornare in mente Trotula. Chi è costei? Dunque, vi racconto un piccolo antefatto. In Europa, nel Medioevo, la medicina e la chirurgia venivano praticate con una certa competenza dalle donne, ed è in questo contesto che si colloca Trotula e le dame di Salerno, appunto. È per questo che mi sono tornate in mente. Questa forma di denigrazione nei confronti delle donne che manifestano loro stesse, accaduti entrambi a Salerno, anche se distanziati nel tempo, sembra avere delle radici profonde, molto profonde, e non ne faccio assolutamente una questione geografica, e che ognuna tragga le proprie conclusioni. Dunque, proprio le dame di Salerno favorirono la rinascita degli studi medici. Considerate che la Chiesa precedentemente, nel periodo che va dal V al XIII secolo, aveva ostacolato chiaramente lo sviluppo della medicina. Le dame di Salerno risultavano essere molto famose sia nella tradizione popolare sia nei circoli scientifici, e Trotula, in modo particolare, era considerata molto più delle altre in quanto era una delle scienziate più rinomate del Medioevo. Inutile dire che gli storici resti ad accettare l'esistenza di una donna di tale grandezza nell'Italia dell'anno 1000 l'hanno completamente eliminata dai libri di storia della medicina. La scuola di Salerno fu il primo centro di medicina non controllato dalla Chiesa e già nell'XI secolo fu definita la prima università europea. Trotula svolgeva un'intensa attività medica e scriveva trattati di medicina. Quando nell'XI secolo si riorganizzò a Salerno l'università, Trotula vi andò ad insegnare e scrisse una enciclopedia medica. Stiamo parlando dell'XI secolo, eh? In un libro salernitano di quel tempo viene citata come una dei sette grandi maestri della scuola. Infatti Trotula scrisse un trattato sulla cosmetica, un trattato sulle malattie della pelle, scrisse un importante libro sulla salute delle donne dove si parlava di chirurgia e anestesiologia e tra l'altro trattava della cura della madre e del bambino dopo il parto, tanto per dirne alcune. Il trattato di Trotula fu un testo molto studiato e seguito fino al 1500. Purtroppo però, visto che all'epoca non esisteva la stampa e i libri venivano copiati a mano, a furia di trascriverlo furono aggiunte, cambiate e tolte molte parti. Ma la cosa singolare è che, in tutti questi passaggi, il libro a volte è stato attribuito al marito di Trotula. Altre volte il suo nome fu scritto al maschile, cioè Trotus, come se Trotula fosse stato in realtà un uomo. Ma lo screditamento di Trotula non finisce qui. Nel 1800 un tedesco, storico di medicina, cercò di sminuire e cancellare l'importanza delle dame di Salerno e di Trotula, affermando che le dame di Salerno erano soltanto levatrici ed infermiere e non medici, quindi non potevano aver scritto trattati di ostetricia. E non fu il solo. Numerosi storici maschi hanno contribuito a screditare il lavoro di Trotula e delle dame di Salerno. Per quanto ci riguarda, forse non sapremo mai con esattezza la vita e le opere di Trotula, ma il fatto che così tanti storici si oppongano al riconoscimento delle conquiste delle donne e si accaniscano nello screditare la loro importanza ci convince sempre di più che Trotula sia stata un medico professionista e che abbia scritto uno dei più importanti manuali di medicina del Medioevo. Terra di me, son Vicente pequenino, vamos abraçar minha crecheu. Oh, ano passado, tempo correr. Ma la sorte toccata a Trotula non è purtroppo un caso isolato. Nel tardo Medioevo, quando la medicina divenne una professione e quindi era necessaria una preparazione universitaria, ci fu come conseguenza l'esclusione delle donne dall'università. Questo perché, diventando colte, le donne avrebbero potuto competere con i medici diplomati maschi e accaparrarsi la clientela. Un esempio per tutti. il caso di Jacoba Felicia, la quale fu portata in giudizio nel 1322 dalla Facoltà di Medicina di Parigi con l'accusa di pratiche illegali. Nonostante al processo ben 6 testimoni dissero che Jacoba li aveva guariti, queste stesse testimonianze le vennero ritorte contro perché Jacoba non era accusata di essere incompetente, ma era accusata di avere osato troppo. La prima accusa che le fu rivolta fu la seguente. Ha curato i suoi pazienti per malattie interne e ferite o per ascessi esterni. Ha visitato assiduamente l'infermo, ha esaminato le urine al modo dei medici, ha ascoltato le pulsazioni e toccato il corpo e le membra. Insomma, l'unica cosa che Jacoba aveva fatto era stata quella di aver osato curare pur essendo una donna. Via via che aumentava la competizione per garantirsi i pazienti, meglio se benestanti, e quindi aumentava il potere della facoltà di medicina, diventavano sempre più aspre e restrittive le leggi contro le guaritrici. Così quelle donne che erano chiamate medici nel XIII secolo furono bollate come ciarlatane o peggio, come streghe nel XIV secolo. E nel 2003? Pasquale Quaranta, autore dell'articolo che ci ha dato lo spunto per queste riflessioni, ha definito quelle studentesse che a Salerno si sono dichiarate come ambigue, ha poi dichiarato che hanno solo voglia di esibirsi, che sono condizionate e influenzate dagli echi del femminismo che aleggia nei corridoi dell'università e che trasuda nei libri di stregoneria. Stregoneria? Ma allora è vero, esistono le streghe! La passata mi dentro, la figata c'era. La vai, la vai, la vai, un po' di brava. La passata mi dentro, la figata c'era. My heart is low, my heart is so low. As only a woman's heart can be. As only a woman's. As only a woman's. As only a woman's heart can know. The tears that drip from my bewildered eyes. A bittersweet romance. You're still in my hopes. You're still on my mind. Oh. And even though I manage on my own, my heart is low. My heart is so low. Oh. Quelle che state ascoltando sono Eleanor McEvoy e Mary Black con il brano Only a Woman Hurts. E adesso andiamo ad altre notizie dal mondo, che purtroppo non sono belle, non perché quelle in Italia sono migliori, naturalmente, anche se abbiamo riso abbondantemente e preso in giro i fatti di Salerno, da lunga tradizione evidentemente, beh, insomma. In Uganda una ragazza riceve lettere d'amore da altre ragazze e viene punita dalla scuola, quindi si toglie la vita. L'8 dicembre scorso in Uganda, nella città di Nsambia, una ragazza diciottenne di nome Paola è stata trovata morta suicida nel dormitorio della sua scuola. Una settimana prima la ragazza era stata sospesa perché accusata di essere lesbica. I genitori però l'avevano comunque fatta tornare a scuola, ma qui Paola era stata presa a bastonate di fronte a tutti. A tutto il corpo studentesco per il semplice fatto di aver ricevuto lettere d'amore da altre ragazze. Il giornale Red Pepper riferisce che dopo le bastonate la ragazza si è lamentata di avere la febbre, ma l'ufficio sanitario della scuola non aveva provvisto alle cure. L'8 dicembre le 8 ragazze che dormivano con lei l'hanno trovata morta nel suo letto. Si era tolta la vita dalla vergogna. La Gay and Lesbian Alliance ugandese si è detta indignata per l'incidente, criticando il governo per non aver detto e fatto nulla al proposito. La legge in Uganda punisce l'omosessualità solamente se ci sono atti sessuali. Da www.gay.it. E vi ricordiamo che siete all'ascolto di È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto all'interno del martedì femminista e lesbico autogestito di Radio Onda Rossa. Vi ricordiamo che avete anche un numero di cellulare a disposizione per mandarci i vostri sms, vi ripeto il numero che è 338-4146-682, ma potete visitare anche il nostro sito che è www.clrbp.it oppure il sito di Radio Onda Rossa che è www.ondarossa.info e se volete potete mandarci un'email a contatti@clrbp.it. Now I'm sitting here before the fire, the empty room, a chorus choir. The flames have cooled, don't get any higher, they've withered. E proseguiamo con una notizia un pochettino più leggera, è dell'8 dicembre. Dopo questa notizia che viene dall'Uganda, ci sembrava giusto tornare in Italia con una cosa che fa sorridere, anche se a denti stretti. E ripeto, è dell'8 dicembre. Nel giorno della festa dell'Immacolata Concezione, il cardinale Giacomo Biffi ha attaccato le femministe nel corso dell'omenia pronunciata nella Basilica di San Petronio. Maria non dice, come direbbe una femminista, io sono mia. Dice, come una donna veramente capace di amare, io sono tua. E con questa parola incanta il cuore del suo creatore e incanta anche noi che abbiamo la fortuna e la gioia di averla come madre, ha detto Biffi. Meno male. Contestando lo slogan più famoso delle femministe. Biffi ha poi elogiato l'umiltà e il silenzio della Vergine Immacolata, sperando che insegni a preferire il silenzio orante alle parole superficiali, insipidi e vane, e a beneficiarci delle ossessive abitudini pubblicitarie del mondo di oggi. Chissà se ascolta una calamità di cui ci rendiamo effettivamente conto. Mandiamogli le registrazioni. Giusto, potrebbe essere un'idea. idea, ma ci può sempre ascoltare in diretta direttamente dal nostro sito, dal sito della radio, li ripeto tutte e due, www.clrbp.it oppure www.ondarossa.info. O via Biffi, datti da fare. Potevamo che accogliervi con una canzone di questo genere che è When the Silence Falls, quando cade il silenzio. Biffi, e state zitto. E proprio perché cade il silenzio c'è un nutrito gruppo di persone che qui ci è venuto a trovare, ci è venuto a trovare. Ciao. C'è Rosina, Annalisa, Tania e la sua mamma che ci è venuta a trovare, che noi salutiamo con affetto. Se stai all'ascolto, questa è dedicata a te. È Un bacio fondente di Gianna Nannini. Santa Madonna, guarda, me l'ha proprio fatta sotto al naso. Comunque, spero che stia in dolce compagnia e quindi la dedichiamo anche alla sua... A Claudia. Esatto, a Claudia, via, siamo sul vaghe. A Claudia. A Claudia, bene, a Claudia. Però su questo disco c'è anche un'altra dedica. Ora facciamolo ascoltare un pezzettino, sì, di Bacio Fondente e poi ci sarà l'altra dedica. Lontana Cecilia, dove c'è una donna a cui non piace la cioccolata e noi infatti le stiamo dedicando un bacio fondente, però un bacio vero, il mio, e basta, non mi permettete, basta, occhi bassi. Ok, in dere, c'è passi avanti a me a capote, in silenzio deve rimanere. Arrivati dei messaggini, uno deve rispondere personalmente alla diretta interessata, ve la passo. Oi Sara, è bellissimo sentirti, potresti approfittare di questa occasione e venirci a trovare in radio una volta ogni tanto. Un bacio grande grande, ciao. Io quando non sono ai comandi mi sento un po' imbranata. Noi dobbiamo andare un bacio appassionato a una nuvoletta. Qui si stanno moltiplicando i messaggi. Una nuvoletta che sta alle mie spalle, che ha appena mandato un bacio. Spero non sia di pioggia, anche perché qui già tira vento freddo. Se si mette pure a piovere è un macello. È un vero piacere il fatto di essere in radio, perché se voi poteste notare l'espressione della nuvoletta capireste che ha più o meno la reattività di una meba. No, comunque ha detto che la nuvoletta è il suo tesoro, dai, sentite i messaggini, sentite. Ma non vi state muovendo tutte? Ma non state gioiendo? Ma la sentite la grande, la splendida Janis? Eh sì, poi siccome parla di pezzettini di cuore, io questa, consentitemi, la dedico al mio di amore, che per motivi di lavoro sta fuori, non so neanche se riuscirà a sentirmi, gli farò sentire la registrazione, e lei porta sempre un pezzettino del mio cuore con sé. Non è una cardiochirurga, chiaramente. Scusate, mi sembra un po' troppo smielata questa trasmissione. Ritorniamo a veri temi. Sarà pure Natale, saremo pure più buone, ma questa è la grande Janis Joplin. E poi abbiamo da dirvi delle cose importanti. Abbiamo appena... È arrivato un altro messaggio, lo posso leggere? Vai. Dai, fammelo leggere. E vai. Allora, ringraziamo commosse, i bacini sono dolci. Ma volevo dirvi, vi interessa sapere che abbiamo fatto l'iniziativa, l'ultima iniziativa che avevamo avuto alla Casa Internazionale delle Donne, al Centro Femminista Separatista, come centro appunto, ha avuto un successone, è stata presentata la vera, prima, grande tombola lesbica. E wow! Lesbo tombola! Esatto, la lesbo tombola. È che abbiamo fatto in tante copie, abbiamo potuto vendere, sono state regalate per Natale e hanno contribuito finalmente a veri e propri coming out familiari. Noi siamo felici perché siamo sempre di più e sempre più strumenti abbiamo, e questo è un ottimo strumento, credete. Noi abbiamo visto dei risultati geniali. nella nostra lesbotombola c'erano tante facce di donne, alcune dichiaratamente lesbiche, altre che sono sicuramente delle icone per noi lesbiche. Allora, l'icona in eccellenza, almeno per una generazione di donne lesbiche... Per eccellenza, non in eccellenza, vai! Per eccellenza, certo. In eccellenza, no, perché sì, è vero, per eccellenza, almeno per una parte o una certa fascia di una certa età, diciamo, di lesbiche giovanine, è quella che vi stiamo mandando con tutto il nostro affetto. Grande festa alla corte di Francia, c'è nel regno una bimba in più, biondi capelli e rose di guancia, Oscar ti chiamerai tu. Allora, è arrivato un messaggino simpaticissimo e dice: datemi un consiglio, sono pazza della prof di diritto all'università, che faccio? A ricambio sponda e ci provo col preside? Bella Yanis, beh, io non sto all'università ma sono un insegnante, parliamone. A palazzo si dorme già, tre briganti con spade con lancia, agguato a sua maestà, Lady Oscar si è proprio nascosta. Io fossi in te andrei vestita da Lady Oscar e poi la inviterei a prendere un caffè. Madonna, ho detto di fare un coretto, non canta nessuno. Oh. Che come dicono i bambini miei a scuola, Lady Oscar. Lady Oscar. Dovreste riconoscerla perché è quella di Etta James, la cantante della nostra sigla, ma siccome siamo qui, siamo tutte insieme, siamo venute apposta alla radio, vi vogliamo fare gli auguri, quale canzone migliore di Oh Happy Day, cantata da Etta James? Quella che state ascoltando non è Etta James, non mi aiuta, è quella dopo, Lucy. Oh, happy day. Questa è Etta James. Ma tanto ormai siamo conosciute, ci è arrivato un altro messaggio che dice: siete pazze, pazze, pazze, vi adoro. Che dobbiamo fare? Lucilla, quando riceve i complimenti si emoziona. Ma manco mi avevi detto bene, eh? Tu mi avevi detto, metti la 7, tu hai messo la 8, Comunque, Aretha Franklin merita un attimo di ascolto, eh? Sentite che voce. Caterina ha chiesto microfono aperto, gliel'ho lasciato. Sì, perché sono, magari sembra sicuro perché mi sto stordendo. No, siccome sono arrivati tanti messaggini, ci farebbe piacere sapere anche chi vi scrive. Allora, se non avete voglia di scrivere il vostro nome, usate uno pseudonimo, comunque sarebbe carino che noi riuscissimo... Grazie, ne è arrivato un altro, a sapere, per poter ringraziare chi ci manda i messaggi, insomma, tutto qui. Comunque, grazie. E poi permetteteci un attimo, questa canzone è dedicata anche a tutte le altre compagne del nostro gruppo che in questo momento non sono qui, ad Ada, a Francesca, e naturalmente Pina che non c'è in questo momento, e naturalmente a Claudia che ha di meglio da fare. Certo. Sì, anche dei trillini chiaramente, sono arrivati numerosi. Ma scusate, avete riso? L'ultimo sms me lo volete dire? No, perché era di una nuvoletta che sfarfalleggiava, che svolazzava. Ma scrivete a quell'indirizzo per quanto riguarda la nuvoletta, scrivi all'altro, al mio personale. Mi ammazzano. Nuvoletta, scrivi sempre che così li leggiamo anche noi. Eh sì, e dai, e dai. Ricordate che vabbè, è vero, è Natale, poi ci sarà l'Epifania, all'Epifania forse ci sarà una sorpresa, non lo sappiamo ancora, però chissà, ma noi continuiamo ad esserci, ad essere presenti, a fare le iniziative e soprattutto a chiedere i vostri contributi per la radio. Qualsiasi notizia voi di cui veniate a conoscenza, che la vogliate commentare, scriveteci, vi abbiamo dato tutti i punti di riferimento. Ve li ripeto? E vai Caterina. Ve li ripeto. Allora, il nostro sito è www.clrbp.it, la nostra email contatti@clrbp.it, oppure potete andare a visitare anche il sito di Radio Onda Rossa che è www.ondarossa.info. E poi ci potete contattare anche ogni mercoledì dalle 8 in poi al centro. Dalle 9 in poi. No, io ci arrivo alle 20, sei tu che arrivi alle 21. Astro. Facciamo le 8 e mezza, yeah, no. Allora, alle 8 ci sono già io che sono Lucilla. Se volete Caterina venite alle 21. Anche 9 meno un quarto. Ecco, e Lucilla potete dalle 8 di mattina. Sì, naturalmente. È una staccanovista, diciamo. Allora, venite a conoscerci, a contattarci, a portarci le vostre idee al Centro Femminista Separatista, sito in via San Francesco di Sales 1B, telefono 06 68 64 201. Caterina, di che c'ha oltretutto sto telefono? È un telefono fax e segreteria telefonica, per cui se tante volte non dovessimo esserci potreste lasciare anche un messaggio in segreteria, oppure potete mandarci un bellissimo fax con un contributo per la nostra trasmissione radio, per esempio. Stand away. siamo arrivati al massacro, è arrivato un altro sms e stanno litigando per leggere le altre. Tania ha preso, ha placcato il telefonino e la rincorre Annalisa. E calcio d'angolo ci ha provato Rosina, insomma un casino, ma mi sa che c'entra la nuvoletta, non me vorrei sbagliare, boh. Lucia, guarda che sei troppo carina così, questa qua non resiste più. Ma che... Se possiamo prendere in prestito la parola famiglia, non ci piace molto, però la nostra famiglia è fatta dalla nostra comunità, noi siamo tutte donne lesbiche che ci aiutiamo e stiamo insieme e ci piace fare le cose insieme. Mi fanno dei gesti, io non ve li ripeto. E quello che volevo dirvi è, auguri a tutte, auguri da parte di tutta la redazione del martedì femminista e lesbico autogestito. Auguri da parte di una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto e noi ce ne rendiamo perfettamente conto. Buon Natale, tanti auguri e ci vediamo l'anno prossimo. A presto. Buon primo dell'anno, che è ancora più prosaico e ci piace di più. Finite bene quest'anno, ma cominciate alla grande il prossimo. Buone feste, rilassatevi e divertitevi e fate quello che vorreste fare. Una voce fuori dal coro, tanti auguri a me. I get a good feeling, yeah. Yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before. No, no. Yeah. Avete ascoltato? È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. A cura del coordinamento Lesbiche Romane sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. I really do believe that.